e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccomi qua, buongiorno, ben ritrovati da Cuore Denari, che torna in diretta e vi accompagnerà come sempre fino alle 12. Deborah ritornerà venerdì, giusto il tempo per brindare insieme a un nuovo anno. E a proposito, voi avete trascorso un Natale sereno? Io me lo auguro di cuore, essendo la donna di cuore, ma se volete scrivermelo vi aspetto. 349-238-6666, ancora tempo per scambiarci gli auguri. Raccontatemi anche se è stato più un Natale di cuore o de panza, perché secondo Coldiretti sono rimasti avanzi di cibo per quasi 500 miliardi di euro, che molte famiglie per fortuna saranno riutilizzati proprio grazie alla crescente sensibilità verso la riduzione degli sprechi. Ma ditemi anche se fate parte di quel 500 milioni di italiani che invece ha passato il Natale sotto le coperte perché influenzato, o invece forse ve la siete scampata, ve lo auguro. In ogni caso, se avete dei rimedi da consigliarci o degli SOS da lanciarci, 800 24 00 24, di voi ci occuperemo nella seconda parte della trasmissione. Ma a proposito di influenze, di starnuti, sapete perché quando si starnutisce si chiudono gli occhi? Questo è il primo domandone di oggi, ma ce ne saranno altri. Pensateci e chiamateci con la risposta al nostro numero verde, e nel frattempo noi partiamo subito con i temi di denari. Io non pago le tasse perché non ho più soldi dentro le tasche, sono troppe le spese in questo paese, magari in galera arrivo a fine mese, posso onore. E invece le tasse è meglio pagarle e farlo con puntualità e precisione per essere in pace con se stesse e anche con il fisco. Dico bene, Giovanni Parente, che ti sto vedendo lì dagli studi di Roma. Ciao Giovanni, mi ha messo la webcam Carmelo, mi ha detto così lo vedi. Tu mi vedi? No, vedo solo io. Peccato. Mi vedi solo tu, guarda. Bene. Sono sfortunato a non poterti vedere. Bravo, vedi che a Natale siamo tutti più buoni. Giovanni, intanto auguri e grazie per essere con noi a parlare di un tema un po' scomodo, perché sappiamo che le scadenze e gli impegni fiscali non sono proprio il tema più gradito, simpatico e amato dagli italiani, ma oggi proveremo a renderlo un po' tale. Pure noi andiamo controcorrente, ne parliamo anche sotto feste, perché il fisco è sicuramente uno degli ambiti di denari che potrebbe valere la pena di affrontare durante le vacanze. Tra un regalo da scartare, un pranzo in famiglia, un panettone, abbiamo infatti in questi giorni qualche momento di pausa dalla routine, che può tornare anche utile per organizzarci, per fare il punto della situazione, segnare sul calendario le scadenze, le date importanti, mettere ordine le carte. Giovanni, costa fatica, ma è bene farlo, che dici? Assolutamente sì, è opportuno in qualche modo rendersi conto di come cambia il calendario, delle novità che ci saranno nel 2017, anche per poter affrontare con un po' più di pianificazione le spese fiscali che ci saranno nel corso dell'anno, o comunque le novità, gli adempimenti, tutti quanti gli obblighi a cui tenere botta durante il 2017. Ecco, una cosa possiamo dire, diciamo che oggi da un punto di vista fiscale si conclude il 2016, perché oggi è l'ultima data clou in cui si versa l'acconto dell'IVA, quindi chi ha partita IVA, insomma, in qualche modo è tenuto a versare l'IVA oggi, è un po' più povero, chiude l'anno con l'ultima grande spesa da un punto di vista tributario. Poi però, insomma, ci sono state anche iniziative per in qualche modo rendere queste festività natalizie un po' meno pesanti, un po' meno vessatorie, chiamiamolo così. Nicoletta, ad esempio, c'è una operazione che è stata lanciata qualche giorno fa, quindi appena alla vigilia di Natale, è stata chiamata appunto la tregua natalizia. Eh sì, di Equitalia. Ecco, dal 24 dicembre all'8 gennaio è stato proprio congelato l'invio delle cartelle. Ma intanto 800 24 00 24, di tutto questo e di più ci parlerà Giovanni Parente. Voi avete una mezz'ora di tempo. tempo per fare le vostre domande e sottoporre i vostri dubbi al nostro amico. Cosa non vi è chiaro dei cambiamenti fiscali che porterà l'anno nuovo? Avete già, ad esempio, anche provato la dichiarazione dei redditi precompilata? Volete parlarne con noi? Pensavate di farlo quest'anno? Vi sono chiare tutte le date? Allora, restate con noi e intanto, Giovanni, come anticipavi, una notizia proprio che riguarda queste feste di fine 2016, questa tregua, un piccolo regalo fiscale di Natale. Ce lo confermi, l'hai anticipato, nessuna brutta sorpresa quindi sotto l'albero, soprattutto in questi giorni possiamo andare a ritirare la posta senza il terrore di trovare qualche bustarella. Diciamo che insomma nel periodo natalizio un postino che ti notifica, questa parola tecnica, però vuol dire ti consegna una cartella di Equitalia, non è proprio il massimo, diciamo. Quindi da Equitalia se ne sono resi conto, era un'iniziativa che avevamo fatto partire anche l'anno scorso, l'hanno ripetuta durante il periodo di Ferragosto e quest'anno la fanno durante il periodo natalizio, con un periodo appunto che copre due settimane, quindi dal 24 dicembre all'8 gennaio. Di fatto vengono congelate tutte le operazioni notifiche degli atti dell'agente della riscossione. Si tratta di circa 380.000 cartelle ed altre tipologie un po' minori di atti. Ci sono anche ad esempio alcune misure cautelari, come possono essere i fermi, le cosiddette ganasce fiscali oppure le ipoteche. Si riservano una quota insomma di atti che sono cosiddetti inderogabili e sono quelli che a causa delle nuove norme che sono cambiate dallo scorso anno vanno notificate attraverso posta elettronica certificata, ma riguardano imprese e professionisti e sono un campo un po' più ridotto. Diciamo che la stragrande maggioranza di contribuenti che non sa oppure si aspettava una notifica da parte di Equitalia non la riceverà. Ecco, fino all'8 possiamo stare tranquilli. Ci sono anche ragioni di cuore, tu mi insegni, insomma, quando arriva una cartella d'Equitalia c'è da essere spaventati, di contraccolpi, no? Che possono esserci e quindi insomma è un'operazione che va nel senso di non essere vessatore. Però scusa Giovanni, questa operazione si inserisce nell'ambito di un'operazione un po' più ampia che proprio sta puntando a rendere l'immagine del fisco un po' più, non dico amico che è una parola grossa, ma almeno un po' più umana agli occhi del cittadino, perché nel 2016 abbiamo avuto diverse iniziative che verso questa direzione. Ma sei preparatissima, Nicoletta. Ma sai che Marco Lombardo mi ha fatto studiare, perché Debora ha detto: mi raccomando, c'è la Nico da sola, allora studia tra un panattone e un aperitivo. Mi sono studiata un po' di cose, non potevo certo fare brutta figura. Comunque, anche perché poi le date ormai me le devo imparare anch'io, con certo. Debora che mi interroga tutte le volte, sai, non mi lascia sgarrare. Io la guardo dalla parte del cuore, quindi della salute, e lei dei denari. Guarda, tu donna di cuori stai diventando anche di denari, devo comunque sottolinearti questo. Adesso lo dirò a Debora, che sarà molto contenta di me. Grazie Giovanni, sei un amico. Allora, principali iniziative di questo 2016 un pochino più buono nei confronti degli italiani, sembra. Assolutamente. Allora, diciamo che si va verso una transizione che è quella di un fisco più digitale, che in qualche modo cerca di semplificare anche la vita dei contribuenti quando si tratta di pagare. In questo senso si è mossa Equitalia, che insomma, anche se il nome fa paura e anche se il nome è destinato a scomparire dal prossimo anno, attraverso in qualche modo lo sviluppo del suo portale e della sua app che si chiama EquiClick, che consente appunto una serie di operazioni come può essere quella appunto del pagamento delle cartelle o dei debiti nel caso in cui si è già arrivati alla rateizzazione. Il progetto appunto Cartella Amica, che va in questa direzione, cioè quello appunto della possibilità di chiedere l'istanza di rateizzazione. Ricordiamo insomma che l'istanza di rateizzazione può essere chiesta liberamente senza dover in qualche modo suffragare uno stato di difficoltà economica fino a 60.000 euro, quindi insomma c'è un grosso snellimento burocratico da questo punto di vista. E poi Da ultimo, insomma, ma non meno importante, c'è questo servizio che era stato in qualche modo anticipato dall'ex premier Matteo Renzi, di notifica attraverso l'SMS. Semiscordo. Semiscordo, che sia un acronimo da questo punto di vista, semiscordo, che sostanzialmente avvisa i contribuenti con appunto un messaggino sul cellulare o tramite email se è stata arrivata se arriva una nuova cartella o se sono se non si è in regola con i pagamenti o se si è vicini in qualche modo alla scadenza. Ma come fanno ad avere il nostro SMS? Dobbiamo darglielo noi, assolutamente, il nostro cellulare, sì. Certo. Diciamo che insomma, non siamo ancora a uno stato, insomma, di nonostante tutte le banche dati, insomma, cioè poi l'interconnessione non è che funziona sempre benissimo, e quindi insomma l'SMS, cioè il numero di cellulare, la nostra mail va comunicata nel momento in cui evidentemente compiliamo dei moduli, facciamo appunto le richieste di rateizzazione, ci registriamo sull'app o sui servizi al portale Equitalia, e quindi in questo caso in qualche modo diamo anche il consenso al poter utilizzare i nostri contatti per questo tipo di servizi, che ricordiamo sono servizi meramente informativi, quindi non hanno una valenza di pagamento, insomma, quindi in qualche modo servono soltanto a ricordare ai contribuenti che hanno delle scadenze prossime, che oppure tu c'è stata una scadenza che è stata saltata. Tu hai conosciuto qualcuno che l'ha già ricevuto? Perché io ne sento sempre parlare, ma qualcuno l'ha ricevuto questo SMS? 800 24 00 24, lanciamo questo domandone, poi ti interrogo anche sullo starnuto, Aia. E voglio anche sapere da te e anche dai nostri ascoltatori che già stanno scrivendo come stanno riciclando gli avanzi, se di avanzi ne hanno ancora, perché oggi ci raccontiamo un po' come sono andate le feste di Natale, perché dobbiamo prepararci ad affrontare poi quelle di Capodanno, brindare al nuovo anno che sarà ricco, come ci stai raccontando, di sorprese. Ma adesso noi ci fermiamo e andiamo a sentire le informazioni sul traffico e ritorniamo subito dopo insieme a Giovanni Parente con i vostri dubbi, le vostre esperienze, i vostri racconti, i vostri ricicli, insomma, restate con me. Cuore e denari. Vive macchina e metà, e tasse. Vive macchina e metà, e tasse. Vive macchina e metà. E siamo tornati a Cuore Denari, stiamo facendo un punto sulle tasse e sul fisco che ci aspetta nel nuovo anno, nel 2017. Ci aiuta Giovanni Parente del Sole 24 Ore, che è nei nostri studi di Roma. Giovanni, ci sei, vero? Assolutamente sì. Allora, andiamo allora a dare una sbirciatina al nostro calendario 2017 per conoscere le principali scadenze fiscali. Giovanni, ce le ricordi? Assolutamente, diciamo che una delle novità di quest'anno è che la certificazione unica, cioè quel documento che il datore di lavoro o l'ente di previdenza per chi è pensionato non dovrà più essere consegnato entro la fine di febbraio, ma bensì entro la fine di marzo, il 31 marzo, la nuova scadenza che è stata appunto prevista da un decreto collegato alla manovra economica approvata nelle ultime settimane dal Parlamento. Sì. E quindi insomma noi avremo questo documento in mano soltanto alla fine, sì, esatto, il 31 marzo, bravissimo. Ci sarà appunto un posticipo da questo punto di vista. Per il resto arriva al terzo anno l'esperienza della dichiarazione dei redditi precompilata. Sì. Ricordiamo che insomma dal 15 aprile di ogni anno l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sia il modello 730 precompilato sia il modello unico, diciamo in qualche modo facendo leva sulla stessa base dati. Sì. I percorsi del 730 di unico sono diversi, i vantaggi nel fare il 730 precompilato e unico precompilato sono diversi, però comunque la scadenza da cui è possibile iniziare a consultarlo è appunto il 15 aprile. Andiamo poi le riprendiamo ad uno. Sì. La data successiva è il 7 luglio. Esatto. C'è un'altra data da segnare nel nostro calendario. E qui insomma in qualche modo si può parlare di una sorta di biforcazione, perché il 7 luglio è la data entro cui CAF i professionisti abilitati devono poi inviare il modello 730 all'Agenzia delle Entrate, insomma, sia che il contribuente, ovviamente qualora il contribuente si decida di rivolgersi a un intermediario o un CAF. sia che ci siano modifiche, sia che non ci siano modifiche, sia che ci siano integrazioni o meno. Ma attenzione, insomma, questa è una data che però non è una data definitiva da questo punto di vista, perché è stato in qualche modo previsto che ci sia un tempo supplementare per i CAF e per gli intermediari abilitati, che insomma potranno inviare una coda dei modelli 730, ovviamente a condizione che abbiano inviato l'80% dei 730 al loro carico entro il 7 luglio. Per questo, insomma, è una sorta di primo step. Mentre il 23 luglio, e per l'esattezza però anche qui il gioco del calendario 2017 fa sì che la scadenza poi slitti a un giorno successivo, quindi nel 2017 soltanto ci sarà sarà il 24 luglio la scadenza, appunto il 23 cade di domenica. Chi fa la precompilata con il fai da te, cioè chi decide di mandarla da solo autonomamente all'agenzia delle entrate, la che dichiarazione precompilata, fa per tre? Esatto. Ma in questo caso non tanto, va bene. Dipende dai casi, ecco, questo è sempre, cioè, sempre una ponderazione di situazione in situazione. Chi appunto decide di mandarla autonomamente con il fai da te attraverso appunto i canali telematici, che possono essere appunto quelli del sito della precompilata a cui si accede in vario modo, se avremo tempo poi lo ricorderemo, può avere appunto il termine del 24 luglio per rispedirla al mittente, quindi insomma per rispedirla accettata, modificata o integrata all'Agenzia delle Entrate. E poi c'è un'altra data che chiudiamo con il nostro calendario per poi approfondire magari alcuni aspetti, il 2 ottobre. Esatto, anche qui è il gioco. Ci sembra molto lontano, ma è qua. Anche qui è il gioco. Anche qui è il gioco del calendario di quest'anno. Insomma, la scadenza è abitualmente il 30 settembre, appunto cadendo di sabato quest'anno, viene appunto posticipata al lunedì successivo, che è appunto il 2 ottobre. Il 2 ottobre è la scadenza per trasmettere telematicamente il modello unico. Ad esempio, il modello unico, mi riannodo appunto al discorso precompilata. Va fatto ad esempio da chi ha inviato una precompilata senza dichiarare un reddito, perché appunto se ne è dimenticato, oppure ha in qualche modo indicato un bonus in qualche modo superiore rispetto a quello di cui poteva fruire. Quindi in qualche modo quando ci si trova con un conto di maggior tasse da versare, poi va fatto il modello unico, può essere fatto in maniera tempestiva subito il modello unico, per evitare poi spiacevoli conseguenze in termini di sanzioni, interessi da dover versare, quindi dover versare ancora di più. Senti Giovanni, per i coniugi c'è la possibilità di presentare una dichiarazione congiunta, e anche per la precompilata questo è possibile? Sì, Nicoletta, l'opportunità ha debuttato da quest'anno, e quindi c'è la possibilità di poi presentare un modello unico di 730 precompilato. Naturalmente il percorso da seguire per chi fa il fa da te prevede un'indicazione specifica all'interno del modello 730. Mi preme comunque ricordare che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione due 730 separati per ciascun coniuge, quindi poi l'indicazione del modello congiunto va fatta successivamente dal coniuge che poi dichiara anche per conto dell'altro. Però insomma è un'opportunità che c'è, e anche ovviamente anche quest'anno sarà confermata. Speriamo insomma che anche per eventuali insomma complicazioni che abbiamo segnalato su Sole 24 Ore durante tutto l'anno, ci sia una procedura anche un po' più agevole che l'Agenzia delle Entrate possa mettere a disposizione per la precompilata 2017. Senti, a proposito di precompilata, c'è il capitolo delle spese sanitarie che mi è molto caro. Già l'anno scorso, per la prima volta, noi abbiamo trovato alcune spese sanitarie inserite in precompilata. Quest'anno ci sono degli sviluppi, delle aggiunte, ad esempio avremo anche i farmaci acquistati in farmacia e, che so, le spese per il veterinario o altro? Abbiamo degli sviluppi. Allora, nel 2016 sono stati circa 520 milioni di documenti relativi a spese sanitarie per un importo pari addirittura a 14,5 miliardi di euro di bonus indicati nelle precompilate. Quest'anno il novero delle spese dovrebbe aumentare. Prima di tutto, al di là delle estensioni normative, ricordiamo che nel 2016 c'è stato qualche problema relazione praticamente ai farmaci da banco che non erano stati diciamo, per cui non era stato possibile per tempo un'archiviazione delle spese da parte delle farmacie, e quest'anno dovrebbero esserci. In più arriveranno ad esempio anche le comunicazioni relative ai farmaci che vengono effettuate ad esempio dalle parafarmacie. Poi ci saranno le spese da parte del sostenute nei confronti di iscritti all'albo dei psicologi, infermieri, ostetrici, i dati di relativi ai tecnici sanitari di radiologia medica e a chi appunto ha dei corner degli esercizi di ottico. Quindi insomma tutta una serie di spese che da quest'anno dovremmo appunto trovare all'interno della dichiarazione precompilata. Ma troveremo anche le spese universitarie sostenute per far studiare i nostri ragazzi? Allora, quelle c'erano già da quest'anno, però non per gli atenei privati, perché c'era stato un ritardo nel decreto, insomma, con cui dovevano essere calcolate queste spese. Ci saranno nel 2017, quindi in questo senso si auspica tutte, perché poi quel decreto è arrivato ad aprile, insomma è arrivato un po' più tardi. In più, novità dell'ultima settimana più che altro, sì, è l'allargamento anche ai dati relativi ai rimborsi erogati dagli enti per il diritto allo studio universitario. Questa è anche un'altra novità molto importante per relazione ai bonus per i lavori in casa. Verranno trasmessi dai condomini anche tutte quante le voci di spesa sostenute sia per i lavori di ristrutturazione, quindi diciamo quelli che danno diritto al bonus del 50%, sia quelli per il risparmio energetico. Quindi questa platea di dati dalla precompilata diventa sempre più ricca e interessante. E infatti di lavori di ristrutturazione e di miglioramento energetico della casa, Giovanni, noi parleremo proprio domani con un tuo collega Cristiano dell'Oste. Immagino che già salutiamo e gli diciamo di prepararci, perché a differenza tua lui credo che verrà in studio, così saluta anche Carmelo, che salutiamo anche noi che è in diretta, in regia, e Laura Vanossi. Allora, che cosa hai avanzato tu dei pranzi di Natale? Guarda, però qualcosa avanza sempre, quindi... Allora, stai con noi, se qualcosa avanza sempre, a noi sono avanzati 3 minuti per farci dare 2 dritte da Stefano Polato, il nostro chef. Ciao Stefano. Ciao, buongiorno, grazie. Auguri. Allora, anche a voi. Noi qualcosa abbiamo avanzato, ad esempio, sicuramente la teglia di lasagne che magari ne ha avanzato un pezzettino, oppure i ravioli, i tortelli, e poi molte famiglie festeggiano anche con carne, arrosti e quant'altro, per chi non fa la scelta vegetariano vegana, ed avanza pure quella. E allora iniziamo da questi avanzi che noi vogliamo riciclare, utilizzare per preparare altri piatti ugualmente buoni, allora, ma senza spendere altri soldi, perché a volte per riciclare l'avanzo uno deve aggiungere, è meglio riscaldarlo e mangiarlo così com'è. Allora Stefano. Certo, anche perché insomma arriviamo da grandi abbuffate, quindi magari riutilizzare degli scarti abbondando con besciamelle, con sughi e con non è una buona idea. Non è una buona idea, quindi ad esempio la pasta ripiena come tortellini o agnolotti possono essere semplicemente ripassati in forno con del formaggio magari stagionato, del grana padano o del parmigiano reggiano, amalgamato con del pan grattato. Quindi andiamo a passare semplicemente la pasta ripiena in forno e in modo tale da riscaldarla semplicemente. Fa questa crosticina che però la rende più molto appetitose. E invece per quanto riguarda la carne avanzata, solitamente si fanno dei polpettoni, delle polpette eccetera eccetera, ma in questo periodo insomma si vedono un po' dappertutto, vanno molto di moda gli hamburger, quindi si può fare un vero e proprio burger di manzo ad esempio, con della carne bollita ma anche mista, può essere del manzo e carne bianca, impastando tutto nuovamente, tritandosi come si fa con un burger tradizionale, la carne al tritacarne, e si compongono gli hamburger in modo tale che possano piacere anche più. Dai, i famosi mondeghili, che sì, i mondeghili milanesi. E poi esatto, in 10 esatto. secondi, le cose, Stefano, che avanzano sempre sono le lenticchie, insomma, perché molto spesso avanzano, perché sono spesso proposte a fine pasto, ecco. Quindi uno non ce la fa, ne mangia una cucchiaiata e stop. Invece mi raccomando, portano denari. Stefano, domani ci sentiamo per le lenticchie ancora con Stefano Polato, tenetele lì. Grazie a Stefano, grazie a Giovanni Parente, andiamo al nostro GR, ritorniamo subito dopo insieme. Cuore e denari. Chissà quanti posti avete aggiunto in questi giorni per festeggiare il Natale insieme a parenti, amici, zii, cugini, fidanzati, mariti, ex mariti, ex mogli, mogli. Insomma, com'è andata? Raccontatecelo, mandateci magari una foto del vostro Natale, della vostra tavola, del luogo di villeggiatura in cui state trascorrendo queste feste. Ma si accettano foto anche in pigiama, perché stando ai dati sono mezzo milione gli italiani che sono a letto con l'influenza, che non è una novità, arriva ogni anno sempre tra Natale e Capodanno e quindi ci manda sempre in fumo tutti i nostri programmi. L'influenza invece l'ha scampata per fortuna al nostro ospite che è qui in studio con me, il dottor Andrea Franzetti, primario di otorino laringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Auguri anche a lei. Grazie. Perché l'inverno, dottor Franzetti, è una stagione calda per gli otorini, direi un po' a tutto campo, perché gola, naso, orecchie sono dei bersagli straordinari, non vengono mai risparmiati, non solo dai virus influenzali però, dottor Franzetti. Certo, perché il clima invernale crea una specie di scombussolamento nelle cosiddette alte vie respiratorie, per cui naso, faringe, laringe, orecchie, tutto viene un pochettino sottoposto a uno stress di tipo infiammatorio che può anche diventare più vulnerabile anche a virus che possono essere virus banali come il rinovirus, che sono i virus del raffreddore comune, fino a virus più importanti come i virus influenzali, che quindi non riescono a essere fermati e poi arrivano alle basse vie respiratorie, i polmoni eccetera, e creano un bel disastro. Oggi parleremo naturalmente di naso, parleremo anche di olfatto, perché vogliamo capire se sa fare anche il suo lavoro, che oltre a quello di respirare è anche un po' quello di catturare i profumi che ci sono nell'aria. Le nostre case ancora forse sono ancora profumate e a volte anche di profumi che pizzicano il nostro naso, ma di questo parleremo più tardi nel corso della nostra trasmissione. Ma dottor Franzetti, abbiamo fatto un quizzettone intanto che lei arrivava in studio. Perché quando starnutiamo chiudiamo gli occhi? 800 24 00 24, potete chiamarci, potete mandarci un WhatsApp per ricevere un libro di Cuore Denari. Lei poi ci darà la risposta giusta, contiamo su di lei, ma io so che lei viene a Cuore Denari e non può evitare di farci il domandone vero del dottor Franzetti, da cui noi impariamo poi sempre qualcosa. Allora, la domanda che ho pensato per oggi è quello proprio per mettere un po' di serenità, perché normalmente cosa succede? Che quando c'è il pranzo di Natale arriva sempre l'untore. Chi è l'untore? Quello che ha l'influenza, che viene comunque a raffreddore, starnutisce, tossisce, ci impesta tutti. E allora, dopo quanto tempo dal contatto con il bello starnuto dell'ospite noi possiamo pensare di sviluppare un fatto, diciamo, virale di raffreddamento piuttosto che un'influenza? Risposta numero uno. Dopo 3 ore una bella starnutita e siamo già lì che ci soffiamo il naso. Quindi alla fine noi del pranzo siamo malati. Già pieni. 3 ore. Oppure? Dai 3 ai 5 giorni, e qui possiamo essere vittime. Oppure, siccome l'incubazione potrebbe essere anche più lunga, anche entro una ventina di giorni. Allora, 3 ore, 3 o 5 giorni, 20 giorni, 800 24 00 24 per dare la vostra risposta. Ma dottor Franzetti, non è sempre solo l'influenza a mettere in difficoltà il nostro naso, che può iniziare a starnutire perché è irritato dall'aria delle nostre case, specie in questi giorni che sono addobbata a festa con pallini, ghirlande, stelle, coroncine, che sono anche un ricettacolo di polvere. Certo, perché noi dobbiamo sapere che il nostro naso può avere o un'allergia di base nota, oppure ci sono varie forme di intolleranze, di reattività che possono reagire proprio ai cambiamenti ambientali, tipo degli ambienti diversi, il clima caldo, freddo, secco, umido, che cambia improvvisamente. E questo, in questo modo le mucose del nostro naso possono veramente cambiare in maniera improvvisa la loro fisiologia, cioè il modo normale di essere, e quindi essere esposti a sviluppare quelle difese, perché il raffreddore di fatto non è nient'altro che una difesa, perché noi aumentiamo il muco, aumentiamo la barriera, aumentiamo il filtro dell'aria che passa, e a un certo punto buttiamo fuori tutto con lo starnuto, che è quasi un atto liberatorio. Allora ricordate, e che per di rispondere anche alla domandona, perché quando si starnutisce si chiudono gli occhi, li chiuderà anche lei. È dottore. Obbligatorio, è quasi impossibile tenere gli occhi aperti. Assolutamente. Se riuscite mandate la foto. Allora, dottor Franzetti, la raccomandazione però in questi giorni che sono, mettono un po' a dura prova il nostro sistema immunitario, perché arriva l'influenza, perché ci sono le malattie del raffreddamento, c'è la polvere che comunque nelle nostre case, abbiamo parlato in diverse occasioni dell'inquinamento che è presente anche nelle nostre case, la raccomandazione ai genitori è di non peggiorare la situazione fumando. Ah beh, assolutamente. Ecco, ma ci sono delle precauzioni che possiamo adottare, qualcosa che possiamo fare un po' per ridurre i danni? Allora, io direi che... Non del fumo, ma in generale, certo. Per fare... Allora, si può anche prepararsi un pochettino a questo periodo. Prepararsi che cosa vuol dire? Vuol dire prima di tutto che tutti i soggetti che hanno un'indicazione, che sono, diciamo così, a rischio, considerino veramente di fare la vaccinazione antinfluenzale, perché questo è comunque un mezzo importante che abbiamo a disposizione per non andare incontro a fenomeni virali di tipo più importante. Poi invece possiamo preparare il nostro ambiente delle alte vie respiratorie, che vuol dire e rimanere sempre idratati. Idratati sia bevendo normalmente una certa quantità di acqua durante la giornata, ma anche tenendo il naso idratato e non secco, soprattutto quando abbiamo i caloriferi in casa che tende a seccare di più, cercando di fare dei lavaggi. Cercando di umidificarlo. Una volta si usavano i cosiddetti soffumigi, che è il pentolino della nonna, magari si metteva dell'acqua bicarbonato piuttosto che dell'acqua con della malva, piuttosto che semplicemente con del vapore. Sono passati un po' di moda? Ma o lei dei consigli c'è ancora? C'è anche chi li fa, chi meglio di niente, per chi ha il naso e le alte vie respiratorie molto secche, e soprattutto per chi ne ha la possibilità l'utilizzo di presidi di tipo termale, tipo le inalazioni o quant'altro. Questo è importante. Poi ci sono anche degli immunostimolanti dal punto di vista batterico che vengono studiati di anno in anno e che hanno un'azione preventiva nei bambini, negli anziani, ma anche nelle altre persone, proprio per stimolare le difese immunitarie rispetto ai batteri principali previsti per l'inverno. Allora, e voi che cosa avete fatto? Che cosa state facendo? Avete l'influenza, l'avete scampata, l'ha presa qualcuno di voi e ce l'avete a casa, e quindi cercate un pochino di così arginare la situazione. Sicuramente molti di noi, quando beccano l'influenza e non hanno dei sintomi molto forti, cosa fanno? Vanno dal farmacista, perché il farmacista ci accoglie, ci dedica anche più tempo, non è una polemica, dottor Franzetti, ci dedica tempo, spesso un sorriso, e noi possiamo raccontargli tutti i nostri problemi, ho un po' di le ossa rotte, ho mi gocciola il naso, e il farmacista ci dà un suggerimento. Ma assolutamente, il farmacista è veramente un punto cardine. Un farmacista per sanità, amico, certo. Noi ce l'abbiamo. Abbiamo il dottor Paolo Vintani, farmacista, vicepresidente di Federfarma Provinciale Milano Monza Lodi, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno dottor Franzetti, buongiorno a tutti. Direttamente dal bancone della farmacia. Cosa le chiedono? Dutour, cosa dicono? Guardi, la prima cosa, l'ultima l'ultimo cliente che ho servito, ma semplicemente detto, faccio prima dirle quello che non ho male, e credo che si riferisse all'alluce, per cui, perché questo è il periodo, chiedono tanto, chiedono di tutto ovviamente, anche perché ci sono problemi di reperimento del medico, giustamente, per il pronto soccorso, per i viaggi, e io quello che raccomando moltissimo, soprattutto in tempi moderni, di leggere molto bene le etichette, perché con l'aumento della pubblicità a volte si sommano dei farmaci, chiedono ovviamente per l'influenza, si prendono il prodotto che viene pubblicizzato, che viene venduto dal farmacista, però dire al farmacista cosa si prende assieme, a volte non ci si pensa, ma del paracetamolo è presente assieme a dell'efedrina, ma lo si prende anche da solo, quindi c'è pericolo di prenderne troppo. Quindi se siete in terapia, anche autoterapia, dirlo al farmacista che vi aiuta. Che vi aiuta. Il farmacista a sua volta dovrebbe chiederlo. Dovrebbe chiederlo, ovviamente. Ecco, certo. Diamoci reciprocamente una mano. Il farmacista, perfettamente ragione. Il farmacista, certo, dovrebbe dire: signora, ma lei sta prendendo, le do questo, però. Allora, e poi di non farci troppo condizionare dalla pubblicità. Il bugiardino si legge, o tutte le volte che lo leggiamo poi ci prendiamo uno spavento? No, non più di tanto. Va riferito che i bugiardini, pochi sanno che sono diversi quelli dei farmaci con la stessa molecola, diverse se il farmaco è su prescrizione medica o è da banco. Da banco sono studiati proprio per antipanico. Antipanico e di chiara compressione. In farmacia però, dottor Vintana, si può andare anche per chiedere al farmacista dei rimedi naturali, perché anche le case farmaceutiche nell'elaborare i loro prodotti si affacciano sempre di più al mondo vegetale. Per esempio, si punta molto sui benefici del pompelmo, delle mele. Sì, allora io tra l'altro mi congratulo con il dottor Franzetti di aver ricordato i vecchi fumenti della nonna, perché sono sacrosanti, perché la secchezza delle nostre stanze è risaputa. Mi permetto di aggiungere una banalità che si può fare anziché il vecchio asciugamano, prendere un pentolino piccolo e un imbuto capovolto, così le signore, se sono già pettinate per il Capodanno, non si spettino, esce dal buchino, diciamo. Ah, perfetto, bravo, vede che il dottor Franzetti invece delle nostre acconciature proprio non ne tiene conto. I medici sono più grossolani, no? Ma, dai, meno male. Quindi no, scherzi a parte, comunque funziona molto bene. Quello che io consiglio spesso, il pompelmo, gli estratti di semi di pompelmo, perché ha un'ottima attività antivirale e anche antimicotica, la troviamo per aerosol, lo troviamo per piccole gocce. Sì, prendo le parole di Paracelso che diceva sempre: guardate la natura, se ci pensiamo bene noi avremmo visto mele ammuffite, arance ammuffiti, limone ammuffiti, ma mai pompelmi ammuffiti. Eccolo lì. Perché è vero che ha un'ottima azione antivirale e antimicotica. Vi leggo un messaggio che arriva perché abbiamo chiesto anche ai nostri ascoltatori di suggerirci i loro rimedi per evitare di ammalarsi. È da qualche anno che alla mattina faccio una doccia fredda e bevo un frullato di frutta e aglio. Mai più ho avuto un raffreddore. Mi auguro però a qualche amico, sì, ancora, perché con quell'aglio funziona. È così portentoso l'aglio? Sì, effettivamente l'aglio ha un'azione antiossidante e antidegenerativa, quindi un immunostimolante, come tutte le erbe ricche di profumo, hanno un'attività soprattutto a livello intestinale. Noi dimentichiamo spesso il nostro intestino, sì, che poi è la parte che ci aiuta nel metabolismo e che stimola il sistema immunitario. Basti pensare che la diminuzione degli aromi nella cucina ha un aumento verticale delle parassitosi intestinali e anche delle candidosi. E in questi casi? Basterebbe riaggiungere il timo e la maggiorana negli arrosti. E anche però nelle minestre, nelle insalate, in tutto eccetera. Quello che vogliamo. Noi tendiamo a mangiare troppo, noi siamo anche quello che mangiamo troppo veloce, è troppo grasso e poco aromatizzato. Dottor Vintani, prima di salutarla, il mal di pancia è uno dei sintomi anche dell'influenza. Sicuramente qualche persona sarà venuta in farmacia da lei dicendo: ma insomma, il raffreddore è tanto quanto, però ho tanto mal di pancia. Lei che cosa ha suggerito tra i rimedi naturali? Tra i rimedi naturali, la prima cosa, ovviamente, i probiotici e i fermenti lattici, che vanno bene anche a livello vaginale, ma soprattutto finocchio, estratto secco di finocchio, di cumino e carbone vegetale, il caro vegetale. Vedi che è il carbone. Allora, buongiorno Nicoletta, mi scrive Serena, non ho mai mangiato molto nelle feste perché i grandi pasti non sono la mia passione, ma quest'anno ho quasi digiunato, causa una brutta influenza che mi ha portato in dono bruciori di stomaco e nausea, oppure ho perso un chilo, ma questo è il lato positivo, ci scrive Serena. Ecco, se possiamo dimagrire però in altro modo, piuttosto che con l'influenza, forse meglio un percorso meno doloroso per i bruciori di stomaco, dottor Vintani, che così lo... Zeolite. La zeolite, che è un'argilla di Cuba, la si trova adesso in compresso in polvere, ha un'azione assorbente meravigliosa. Fantastico, dottor Vintani, quante ne sa. Torni presto a trovarci. Grazie a lei. Grazie. Arrivederci. Grazie mille. Dottore. Arrivederci. Dottor Franzetti, allora, il naso l'abbiamo praticamente sistemato? Adesso ricordatevi il domandone, stanno già arrivando. Quando arriva l'untore a trovarvi, di solito è sempre il parente di lui o il parente di lei, perché vero? Poi slatentizza, esatto, tutta una serie di situazioni. Viene sempre quel tuo zio, sempre malato, non sta mai a casa, anche se ha raffreddore, e magari aveva anche qualche linea di febbre, insomma, ve l'ha attaccata all'influenza. Quanto ci mette? 3 ore? Dai 3 ai 5 giorni o ne devono giorni. Passare almeno una ventina? 800 24 00 24, e noi continuiamo con il nostro naso, che grande o piccolo che sia può darci dei problemi, specie in questi periodi dell'anno che sono un periodo un pochino più a rischio. Arriva l'influenza, arrivano i primi freddi, ci sono gli untori che vengono a trovarci. Oh, mamma, che occhi grandi che hai! È per guardarti meglio, cara. Grande che hai! È per poter... Parliamo di nasi tappati, di nasi che gocciolano, di nasi che si chiudono, che prudono, che si seccano, ma vogliamo anche capire se questa bella proboscidina che abbiamo in mezzo alla nostra faccia, che dà anche un aspetto particolare al nostro viso, ha una sua nobiltà, riesce anche, perché di lavori ne ha tanti, ma riesce anche ad annusare. Vogliamo infatti raccogliere proprio questa opportunità e tornare a parlare di olfatto. Ma intanto voi continuate a raccontarci delle vostre vacanze, delle vostre feste di Natale, se state partendo, se l'avete festeggiata a letto con gli amici in modo sontuoso oppure proprio con un brodino, perché l'influenza ha pensato a mettervi a stecchetto. Intanto andiamo a Roma, c'è Renato che ci aspetta. Buongiorno Renato, benvenuto. Buongiorno. Com'è andata? Bene, benissimo. Bravo. Anzi di più. Anche di più, benissimo. Allora Renato, senta, io volevo fare una domanda al dottore, sì, perché è un po' di anni che non ho più l'olfatto. Ho addebitato questa mia, diciamo, defaianza al fatto che io costantemente, non dico tutti gli anni, ma soffro di sinusite, per cui potrebbe essere quello. O altrimenti chiedo al dottore perché non ho più l'olfatto, a cosa è dovuto? Grazie Renato. Intanto dottor Franzetti poi ci aiuta a fare una sorta di test del nostro olfatto, perché quando il naso si tappa abbiamo subito la sensazione che sia chiuso e quindi facciamo fatica a respirare e anche ad annusare. Ma quando il nostro naso sta bene, come facciamo a capire se riesce a catturare tutti gli odori, oppure se nel corso degli anni o a causa di alcuni problemi che possono insorgere nel corso della nostra vita ha perso un po' lo smalto? Ma allora, diciamo così, che l'olfatto ha una sua fisiologia in crescendo e in decrescendo, nel senso che da bambini è tantissimo sviluppato, rimane a uno sviluppo eccellente fino alla terza, quarta decade di vita, poi comunque fisiologicamente, a prescindere dagli stimoli cui noi lo sottoponiamo, fino dalla quarta fino alla sesta decade di vita rimane più o meno stazionario, altalenante, iniziamo a perdere qualcosa. Esiste anche un decadimento che si chiama presbiosmia, che durante la, diciamo, la vecchiaia l'olfatto tende a decadere come tutta buona parte del sensorio nervoso. Allora, in questo... Che tragedia però, messa così, tutto un decadimento così. È così come siamo fatti, però voglio dire, questa è la fisiologia, la storia di ciascuno. Dovremmo cercare di non peggiorare questa situazione, certo. Anzi di tenere i nostri tesori, no, perché... ogni parte di noi stessi è un tesoro per ciascuno di noi, di tenerli il più possibile attivi e utili per noi. Quindi che cosa succede in alcune situazioni? Che o per un problema meccanico, cioè per una problematica legata al naso, cioè al distretto nasale, quindi il nostro amico diceva una sinusite, un fatto che ricorre in maniera continuativa, un fatto virale che continua ad andare a ledere in qualche modo le cellule olfattorie, perché le cellule olfattorie sono gli unici neuroni, cioè l'unico punto sensibile dell'organismo che noi abbiamo esposto all'esterno. Sì. No? Per cui tutto ciò che succede nel naso dal punto di vista meccanico e infiammatorio va a ledere queste cellule olfattorie. Ma potrebbe anche essere qualcosa che agisce a livello centrale, cioè nel percorso che lo stimolo nervoso ha dalla cellula olfattoria dal naso fino al bulbo olfattorio che si trova nel cervello. Quindi andare a capire perché uno ha un calo dell'olfatto o meno richiede prima di tutto capire quanto è calato l'olfatto. Proprio non ce l'ho più, ce l'ho di meno, ce l'ho solo su alcuni odori, su altri... Il mio olfatto è alterato, si chiama nel peggio, si chiama cacosmia, oppure uno sente degli odori che non esistono, ci possono essere delle allucinazioni olfattive, esatto. Oppure, e capire questo sia dal punto di vista soggettivo, ma esistono anche oggi dei test che sono più oggettivi, fino ad arrivare a delle forme sperimentali fatte con studi con risonanza magnetica piuttosto che con PET e SPEC, che sono degli altri esami radiologici sofisticati, che ci permettono di vedere come il nostro cervello viene attivato dallo stimolo olfattorio, potenziali evocati o quant'altro. Quindi lo studio è estremamente approfondito, le soluzioni dipendono dalle cause. Oggi ci sono delle soluzioni che sono delle soluzioni ottime se la causa è nel naso o nei seni paranasali. Se invece sono delle lesioni del tessuto nervoso, dobbiamo aspettare gli esiti di cose futuribili con le staminali. Cose che adesso diciamo sono in fase di laboratorio, si stanno facendo degli studi per vedere, impiantando queste cellule staminali, come può rigenerarsi l'olfatto dal punto di vista del sistema nervoso, però attualmente non li abbiamo a disposizione clinicamente. Ma dottor Franzetti, lei può aiutarci a farci fare un piccolo test per capire se il nostro naso funziona a dovere, quindi un naso che funziona bene è la condizione per assaporare i profumi e gli odori. Come possiamo accorgerci che annusiamo per bene? Allora, ci sono tre odori che dobbiamo sentire per forza, che sono caffè. Il caffè, va bene, la cannella e il tartufo. Questi tre, se non li sentiamo, vuol dire che c'è una iposmia importante, ok? Caffè, cannella e tartufo sono tre odori estremamente stimolanti, perché non stimolano soltanto le cellule olfattorie, ma stimolano anche il sistema del trigemino. Ok, quindi ricordiamoli: caffè, cannella e tartufo. Beh, il tartufo è difficile, bisogna essere anche... Se uno apre un vasetto con un tartufo e non lo sente, è proprio quasi un'anosmia. Quindi Candida trifula e i trifulai, quelli che vanno a tartufo, hanno sicuramente un naso... assolutamente funzionante. Assolutamente, che perché li trovano sottoterra. Certo. Quindi... Allora, comunque... E poi l'altra cosa da fare è paragonarsi su odori più semplici. L'odore dell'agrume, per esempio. Quando sbucciamo l'arancio. L'arancio, il mandarino, eccetera. Il vicino percepisce un odore che noi non percepiamo. Questo punto di paragone è importante. Dottor Franzetti, le leggo Francesca, 44 anni. So che il mio olfatto è buono, per tutte le puzze biologiche e non biologiche che sento per strade, perché so che le verdure cotte al microonde sono cotte dall'odore in cucina, quindi un olfatto molto raffinato. La cosa curiosa dell'olfatto, che è un senso molto soggettivo, un odore che io reputo gradevole per lei può apparire magari nauseante oppure troppo forte, o ci sono anche delle persone che amano degli odori che sono riconosciuti da tutti dei sgradevoli. Ad esempio penso all'odore della candeggina, ci sono persone che all'odore della candeggina o dell'acetone lo trovano particolarmente con grande appeal, ecco, odoroso. Come mai? Ma allora, ogni odore è legato a una memoria, sì, e ogni memoria è legata a un'emozione, un sentimento. Uno dei modi con cui noi, soprattutto da bambini, entriamo in contatto e creiamo una fase di sentimento, di emozioni a livello cerebrale come memoria, è proprio dato dagli odori che sentiamo. E allora, la prima cosa è: questi odori hanno delle correlazioni o hanno avuto delle correlazioni importanti con la nostra sfera dell'emozione, del sentimento, perché questo può già da solo spiegare questo meccanismo. Perché quello che succede al di là della stimolazione nervosa, che è un impulso elettrico, a livello cerebrale, nell'elaborazione di questo impulso elettrico, è veramente un mistero. E quindi uno può legarlo o non legarlo a un determinato ricordo, a un'emozione, a una cosa bella della propria vita, anche se il tipo di stimolo è un tipo di stimolo magari acre, piuttosto un tipo di stimolo che non è nella consuetudine delle persone percepito come positivo. Allora, qual è il profumo del Natale che portate non nel naso a questo punto, ma nel cuore e nel cervello? 800 24 00 24. Ricordate che ci sono i domandoni. Ci scrive Alberto: ho passato il Natale con un fazzoletto sulla bocca stile bandito per non contaminare i parenti, può aver funzionato? E se non funzionasse, dopo quanto tempo gli amici e i parenti di Alberto si beccherebbero l'influenza? Dopo 3 ore, dai 3 ai 5 giorni, dopo 20? Rispondete al nostro domandone, andiamo a sentire i mercati, ritorniamo subito dopo insieme, continuiamo a parlare di olfatto, ma anche di naso che gocciola e che si tappa, come riconoscere un raffreddore da un altro problema? Restate con noi. Cuore e denari. Voglio il tuo profumo. E siamo di nuovo insieme, stiamo parlando di influenza, di feste, di nasi gocciolanti, sì, perché il naso ci dà qualche problema, specie in questo periodo, si tappa, gocciola, starnutisce, prude, si secca, questo fa il naso quando ci dà fastidio, quando invece sta bene, beh, questa è tutta un'altra storia, l'aria entra dentro di noi, ci nutre, ci dà energia, perché il respiro, come ci insegnano gli esperti, ma anche i testi, è vita, perché sentiamo i profumi che archiviamo nel file della nostra memoria, quella del cuore, e sicuramente nelle vostre case c'è qualche profumo del Natale o il profumo di una persona a voi particolarmente cara con cui avreste avuto il piacere di passare queste vacanze. 800 24 00 24, qual è il profumo che riattiva in voi un ricordo piacevole, dolce? Ma prima di andare ad annusare, dottor Franzetti, a continuare a parlare di olfatto, vogliamo dare modo alle persone che hanno qualche problema con il naso in questo periodo di rimetterlo un po' in sesto, a funzionare, perché il naso, anche se a volte è un po' ribelle, può essere governato. Ci sono dei trucchetti, dottor Franzetti, che lei ci può insegnare perché il naso ritorni in modo veloce, rapido, a fare il suo lavoro. Ad esempio, siccome buona parte della situazione nasale può essere molto condizionata da alcuni riflessi che sono mediati da un nervo che si chiama trigemino, sì, ci sono dei punti che sono delle manovre simili osteopatiche che se stimolati adeguatamente per un 30-40 secondi possono dare un sollievo, per esempio in quei casi in cui il naso tende sempre a chiudersi perché si gonfiano i turbinati, piuttosto che continua a starnutire perché non si riesce a interrompere lo stimolo del riflesso dello starnuto. Io ne faccio un 60-70 di fila nei momenti meno adatti. I due punti di stimolo più facile del nervo trigemino sono: uno si chiama la fossa canina, che è praticamente sopra il canino, sopra il dente canino, a lato dell'ala nasale, dove l'osso, prima di diventare l'osso zigomatico, ha come una fossetta. Sì, un avvallamento. Un avvallamento, esatto, proprio sopra il dente dove c'è quell'avvallamento lì. Ecco lì, una pressione con il dito per un 30-40 secondi, non una pressione dolorosa, è fortissima, una autopressione che uno si fa, prolungata per un 30-40 secondi da una parte e poi dall'altra parte, tendenzialmente io li farei asimmetricamente, cioè non insieme da tutte le parti, può dare una sensazione di questo tipo, ma anche per esempio una stimolazione alla radice del naso dove inizia l'orbita in alto. A un certo punto uno, se scivola col dito dal naso lungo la palpebra superiore, trova come una piccola fossetta, come se l'osso facesse sotto il sopracciglio. Sotto il sopracciglio c'è una specie di loggia, di fossetta, sì, che se uno schiaccia lì sente una sensazione che non sente negli altri punti dell'orbita. È vero. E quella sensazione lì è sempre una stimolazione trigeminale che soprattutto nelle forme di sinusite permette di decongestionare minimamente proprio l'ostia di drenaggio dei seni paranasali. Ecco, per esempio queste due, quei massaggi, chiamiamoli così, ripetuti durante la giornata, possono dare un minimo di sollievo. Allora, adesso diamo sollievo a Teresa dalla provincia di Catania. Buongiorno. E poi abbiamo Remo dalla provincia di Trento. Teresa, buongiorno e benvenuta. Auguri. Grazie. Io sono Teresa, parlo da Catania. Sì. Io ho sempre la gola secca, il palato secco, soprattutto la notte. Mi alzo con una sensazione di soffocamento. Non lo so, ho fatto anche delle cure, delle bustine per 3 mesi. Altri farmaci, ho fatto una visita. Scusi, otorino, ma Teresa, Teresa, magari lei è russa, lo so che non si può dire, ma lo russiamo tutti. A parte il russamento, però bisogna verificare che il naso funzioni bene, perché potrebbe essere che in alcune posizioni durante la notte uno respiri con la bocca aperta e quindi la respirazione orale secca tutto, perché l'aria quando passa dal naso viene umidificata e riscaldata, quando passa dalla bocca invece secca tutto. E questa di solito è la situazione principale, quindi proprio una cosa fisiologica. Quindi va controllato com'è la respirazione nasale in questi casi qua. Poi ci sono anche delle forme che vanno indagate, che danno come la secchezza. Come ad esempio le apnee notturne. Sì, ma proprio anche delle malattie legate al sangue, o anche malattie autoimmuni che possono dare questa secchezza diffusa, che vanno verificate. Però la causa più comune è proprio il respirare con la bocca aperta di notte. Allora, invece Remo si candida per il domandone, il secondo domandone, quello del dottor Franzetti. Quello dell'untore. Dell'untore. Remo dalla provincia di Trento, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Remo, grazie di aver chiamato, benvenuto. Grazie a voi per le vostre trasmissioni che sono sempre molto interessanti e molto utili. Remo, lei si candida per la risposta alla domanda Franzetti, chiamiamola così, domandone Franzetti. Sì, allora, sì. L'untore. Dopo quanto tempo ci attacca l'influenza? Secondo me 3-5 giorni, perché ho molte esperienze in merito. Perché... Esatto, giusto. Nel senso che è lei l'untore o se le apprende sempre? No, normalmente recepisco. Recepisco. Allora, e adesso è influenzato, Remo? No, fortunatamente no. Se no veniamo subito da lei. Allora, è vero. Ho fatto la vaccinazione, per cui dai, spero di avere un po' di protezione. Grazie Remo. Cuore o denari il libro? Denari. Denari. Allora Remo, prendiamo tutti i dati dalla regia a Remo e arriverà il libro di Cuore Denari. Quindi se gli scoppia un raffreddore, un'influenza dopo 4-5 ore, è perché ce l'avevate già in giro, non prendetevela con l'ipotetico untore. Ecco, è l'untore dell'altra volta, quello a cui non avete dato peso. Dottor Franzetti, Remo ha detto mi sono vaccinato, spero di non prendermela. È automatico non prendersela, bisogna incrociare le dita. Lei che posizioni ha nei confronti di questo vaccino influenzale che ha già scatenato i commenti dei nostri ascoltatori? Alcuni sono pro, alcuni sono contro. Adesso sarebbe, per chi avesse magari cambiato idea, è troppo tardi? O conviene sempre? Adesso siamo abbastanza avanti come vaccinazione. Non è mai troppo tardi, però sicuramente se uno sceglie di scegliere un percorso di vaccinazione è meglio che lo faccia con i tempi adeguati, perché il vaccino non è nient'altro che una stimolazione di un innesco di difesa immunitaria nel nostro organismo. C'è bisogno anche di tempo e di una congiuntura di tempo tra il picco della nostra difesa immunitaria e la comparsa dell'eventuale contatto col virus. Non è che se uno si vaccina automaticamente non si ammala mai. Più. Anche perché ci sono anche dei virus che non sono dei virus quelli per cui ci vacciniamo per l'influenza, ma dei virus che comunque vanno ad attaccare le alte vie respiratorie, sui quali noi non abbiamo un'immunità, e quindi è difficile poi capire se questa è un'influenza o meno. Però io direi, la mia opinione è che la vaccinazione è un'arma importante soprattutto per le persone a rischio. Che sono, le ricordiamo? Che sono soprattutto gli anziani, le persone immunodepresse e eventualmente tanti bambini. Dottor Franzetti, per evitare che il raffreddore poi inizi a trascinarci nel solito vortice, che poi arriva il raffreddore, poi ti viene mal di gola, poi ti viene mal d'orecchio, poi la tosse, insomma, per bloccarlo lì dov'è, che sia solamente una influenza senza poi tutte con le aggravanti dei vari sintomi, c'è un modo, ci sono delle attenzioni, delle precauzioni? Soprattutto pensiamo anche ai bambini, perché per i bambini è un classico raffreddore, otite. Ecco, si può rompere questa catena? Questo meccanismo si innesca perché c'è un punto del nostro organismo che è il rinofaringe, che è l'incrocio, che è la parte che sta dietro il naso, che fa comunicare faringe, naso e attraverso le tube e le orecchie. Quindi questo incrocia rischio. Questa zona dell'incrocio a rischio nei bambini spesso magari anche reso più aggredibile dalla presenza di adenoidi, no, che sono un po' ingrossate. Ecco, questo incrocio a rischio che cosa comporta? Comporta il fatto che deve star bene. Quindi se questo incrocio funziona nelle sue qualità difensive, non si verifica questo spostamento. Se invece non funziona, allora che cos'è che ci permette di funzionare? L'igiene, quindi eventualmente il lavaggio nasale, l'umidificazione, le cose che abbiamo detto prima. No? E soprattutto il fatto che non dobbiamo iniziare a trattare il sintomo quando non ne possiamo più, no? Ma dobbiamo iniziare a precorrere la comparsa di un sintomo lieve, magari con degli, chiamiamoli, espedienti di tipo naturale, di tipo igienico, non farmacologico, in modo da permettere al nostro organismo di reagire adeguatamente. Flavio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Auguri. Grazie, altrettanto. Niente, io qualche volta mi sembra di avere una condanna, nel senso che ne so, magari vado a far benzina e sento l'odore degli idrocarburi e mi resta questo odore appiccicato dentro nel naso per mezza giornata. Anche in gola, vero? No, proprio più che in gola, nel naso, quasi come se avessi una memoria e che ne faccio fatica. Lei prima parlava di profumi belli, insomma, io qualche volta mi viene in mente che ho l'olio di gelsomino, mi pare che sia, e vado ad annusarlo un po' per avere un po' di sollievo. Esatto. Gaia ci scrive che è il profumo della sua bambina. In effetti il profumo dei bambini piccoli è un profumo delicatissimo. Flavio ha quella che lui dice, mi sembra una condanna. Come mai questo naso che cattura questi odori sgradevoli e li trattiene, sembra? Allora, l'odore nasce da questo meccanismo. C'è una particella nell'aria, che è una particella, cioè una cosa reale, non è una cosa immaginaria, che attraverso l'aria va ad attaccarsi alla mucosa e alla cellula olfattoria. Il contatto, se non viene meno, può continuare a mantenere lo stimolo. Quindi la prima cosa è togliamo le particelle dal naso il prima possibile. Se uno ha questo meccanismo, magari legato alla conformazione anatomica del suo naso, sì, deve immediatamente lavarsi il naso. Basta, ci sono anche quelle, ci sono delle fialette, degli spray, delle cose della fisiologica. Il lavaggio immediato del naso, cioè il togliere le particelle che stimolano questo stimolo. È come quando ci sporchiamo le mani che le laviamo. Quindi possiamo lavare il naso se gli odori si appiccicano al nostro naso. Ci sono... Soffiarci il naso no. Ma anche soffiarsi il naso, ma il soffiarsi il naso, il lavaggio toglie le particelle. Poi ci sono anche dei preparati magari più energici nel togliere queste particelle, magari a base di acido ialuronico, che hanno anche da, fanno anche da protezione alla, a questo contatto. La seconda cosa giustissima che fa il nostro amico è stimolare immediatamente il naso con un altro stimolo gradevole. Certo. Perché questo invece toglie, innesca un meccanismo nervoso che ci devia. E poi mandare a far benzina un altro. Ah, il figlio, la moglie. 800 24 00 24, tra poco vi parleremo anche di un altro naso, un naso elettronico, tra poco. Cuore e denari. Profetico, nonché magnetico, geometrico ed acrobatico, sei spesso problematico. Molto ironico. Siamo tornati qua tutti con i nostri nasi, dottor Franzetti, e la facciamo lavorare, ma d'altra parte questa è la stagione dell'otorino, proprio la stagione classica, in ferie non si va. 800 24 00 24, se volete parlare con noi per raccontarci cose belle, i profumi che avete raccolto, che portate nel cuore del vostro Natale, non solo quelli che accendono dei ricordi piacevoli, oppure dei problemi che il vostro naso vi dà perché si mette a starnutire senza motivo, oppure si tappa, gocciola, o invece un motivo può averlo, avete preso l'influenza e cercate di scrollarvela di dosso senza, cercando di evitare le complicanze. Dottor Franzetti, abbiamo parlato di olfatto e sono arrivati tanti messaggi che legano la mancanza di olfatto all'inizio a un segnale, a un campanello d'allarme per una malattia che, di cui abbiamo parlato anche in diverse occasioni qua a Cuore Denari, che è il Parkinson. C'è una relazione? Vogliamo chiarire un po' questa? Ma allora, che... intanto vorrei togliere un po' di paure. Sì. Allora, perché tutte le forme neurodegenerative, di cui anche il Parkinson fa parte, spessissimo nel loro quadro clinico hanno l'iposmia. Cioè, che vuol dire, sentire meno gli odori. Questo è un dato certo clinico, ma non è vero l'inverso, cioè non è assolutamente provato che l'iposmia sia un, diciamo, preludio a una forma neurodegenerativa di qualsiasi tipo. Cioè, quindi, non c'è una corrispondenza quindi di univoca. Se è vero un senso, quindi che spesso uno che ha una forma neurodegenerativa a questo, non è che se uno non sente gli odori, sono tantissime le cause per cui uno può sentire di meno gli odori. Potrebbe essere questa, una banale sinusite, ma potrebbe come essere abbiamo tantissime. Detto, i polipi. Questa sicuramente non è né la prevalente né un segno patognomonico, si dice. Patognomonico. Che vuol dire se è così è così. Maria da Milano, buongiorno. Ma senta un po' il dottor Franzetti. Buongiorno. Pronto? Buongiorno Maria, benvenuta. Buongiorno. Eccola. Solo questo quesito al dottor Franzetta. Io ho il setto nasale storto e naturalmente scarico male da una narice, quasi niente. Però io avverto quando sono con mia sorella che lei avverte degli odori che io magari non sento, sia pur lievi. Se, dipende, cioè, se incide nell'olfatto il fatto di avere il setto nasale storto. Sì, avere un po' una canna fumaria un po' deviata. Grazie Maria. Beh, sicuramente un'anomalia di conformazione anatomica del naso può influire, soprattutto quando uno ce l'ha da tanto tempo, con un calo dell'olfatto. Non è detto che raddrizzare il naso, il setto nasale, comporti una ripresa certa dell'olfatto, della pelle dell'olfatto. Spesso questo qui invece accade, però bisogna fare degli studi, soprattutto attraverso degli studi endoscopici, per vedere se realmente questa deviazione del setto ostruisce l'accesso dell'aria alla regione olfattoria, perché questo potrebbe già dare una certezza maggiore sulla ripresa dell'olfatto facendo un eventuale intervento chirurgico. Tra poco parleremo di un naso un po' speciale, il naso elettronico. Prima però andiamo ad Agrigento, perché c'è Stefano che ha un problema, forse anche lui di naso, o forse il figlio. Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, io volevo chiedere al dottor Farinetti un'informazione, un parere su mio figlio che soffre di sinusite cronica. Io non so se ne avete già parlato. Abbiamo fatto delle puntate sulla, anche parlando di sinusite, che trova in archivio, ma dottor Franzetti, un bignamino. Suo figlio quanti anni ha, Stefano? Ne ha 25. Spesso in questo periodo d'inverno ha sempre questi forti dolori alle tempie. La prima cosa che fa è prende le Oki, che è un chiaramente farmaco, un antinfiammatorio che è molto, molto pesante. Allora, intanto l'automedicazione stiamo attenti, non è detto che sia un dolore alle tempie, difficilmente una sinusite, per cui bisogna capire esattamente di che cosa si tratta, cioè se è una forma sinusitica, se sono tante sinusiti acute, se è una sinusite cronica, cioè che uno ha sempre, che poi in determinate situazioni diventa più dolorosa, perché a seconda di queste situazioni, che si scoprono come? Si scoprono sostanzialmente facendo un esame endoscopico con le fibre ottiche nel naso ed eventualmente, se questo non è sufficiente, con un esame TAC senza il mezzo di contrasto. Oltretutto adesso ci sono dei sistemi TAC che si chiamano TAC Combin, che ci fanno prendere un centesimo delle radiazioni di un TAC normale, per cui hanno delle definizioni ottime, e questi due esami messi insieme ci danno la certezza se c'è una sinusite, ecco, o no. Quindi il messaggio: prima di prendere dei farmaci, facciamo con una diagnosi che ci facciamo da soli, facciamo un saltino dal medico, gli strumenti ci sono per avere un quadro della situazione, e nel caso, se è necessario utilizzare una terapia, utilizzare quella mirata. Intanto voglio salutare il dottor Roberto Gasparri, che è in linea con noi, è vice direttore della chirurgia toracica dell'OIEO. Buongiorno. Buongiorno e auguri anche lei. Come potevamo non chiamarla in questa puntata in cui parliamo di naso, per farci raccontare da lei di un moderno naso, un naso elettronico che è in grado di fiutare, pensate, nell'alito la presenza del tumore al polmone in fase iniziale, cioè quando le chance di guarigione possono raggiungere l'80%. Dottore, allora ci racconti tutto di questo naso? Che soprattutto fa una svolta, come lei mi anticipava nella nostra chiacchierata prima della diretta, perché i suoi studi si concentrano nello studiare proprio il metabolismo del tumore attraverso l'analisi dei fluidi biologici. Siamo a una svolta. Si interviene, diagnosticate precocemente il tumore. Dottore, sì, mi taccio e ci racconti per bene. L'obiettivo di questo dispositivo è quello di entrare in un test per la diagnosi precoce e che possa essere rivolto proprio alla massa, quindi diagnosticare tanto più tumori possibili. E questo come lo puoi ottenere? Con un test molto semplice, quindi stiamo lavorando sull'esame dell'esalato, cioè il soggetto deve solamente espirare e noi prendiamo l'alito, lo conteniamo dentro un sacchettino e il sacchettino viene connesso al beccuccio di un piccolo computerino nel quale ci sono gli otto sensori. Questi otto sensori, immaginate che sono come dei piccoli bottoni della camicia, sì. E quindi vengono inseriti in questo contesto ed è quindi un apparecchio molto semplice, molto pratico, può stare sulla scrivania come un piccolo computerino del medico di base e quando c'è un problema o un sospetto puoi eseguire questo primo test e poi semmai in un secondo momento arrivare ad eseguire l'attacco. Questo è l'obiettivo del futuro. In merito a quello dell'analisi metabolica, questo è fondamentale perché se per 40 anni ci siamo occupati di fare una fotografia del tumore, da prima con la laser e poi con un attacco, e come diceva il collega Otorino, in effetti l'attacco somministra sempre delle radiazioni, quantomeno quell'attacco del torace, cioè, o attacco total body, in questo caso stiamo lavorando per un test che non è invasivo perché noi utilizziamo i fluidi biologici, proprio le urine o l'esalato oppure anche il sangue, sono tutti dei fluidi nostri, dell'essere umano, che possono essere presi senza alcuna invasività. sulle tracce del killer. Fate un identikit del killer, inteso killer come il tumore, un po' come fanno i RIS di Parma. Assolutamente, lei pensi che quando abbiamo iniziato questa nostra esperienza io ho interpellato i RIS di Parma e proprio da lì poi è scaturito tutto, perché poi noi siamo stati finanziati dall'AIRC, da questo grosso ente che ci ha supportati nella ricerca per 3 anni e abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Cioè questo dispositivo olfattivo ha una sensibilità dell'80% e una specificità del 90%, però bisogna lavorare ancora nel futuro. E in merito a quello che diceva lei dei RIS, è importante perché di ciascun fluido biologico noi ricaviamo un'impronta, cioè abbiamo dei composti volatili che otteniamo dall'esalato, così come dei metaboliti urinari che vengono prodotti direttamente dal cancro. Io che mi occupo di cancro del polmone da molti anni, ovviamente mi sono concentrato, certo, la mia attenzione sul cancro del dottore, polmone. Dottore, io devo chiudere, mettiamo però un link prezioso sulle pagine di Cuore Denari per saperne di più e inviteremo il dottor Gasparri a tornare a trovarci. Se volete saperne di più, pagina di Cuore Denari, trovate il link e anche il link ad un video. Dottor Gasparri, grazie. Dottor Franzetti, auguri. A domani. A tutti.